Odissea 2011. In viaggio verso il futuro. Di Maurizio Melis. Supponiamo che ci siano esseri viventi sulla Luna. Ne segue sicuramente che il carattere degli abitanti debba accordarsi con quello del luogo in cui vivono. Dal momento che la Luna ha montagne e valli molto più grandi di quelle della nostra Terra, essi hanno senza dubbio corpi più massicci e costruiscono progetti giganteschi. Durante il loro giorno, della durata di 15 dei nostri, essi sopportano un caldo intollerabile. Forse, mancando di pietre per costruire protezioni contro il sole, lo fanno invece con il suolo fangoso. Essi realizzano poi, a tutti gli effetti, una città sotterranea e vivono all'interno di cave, nel terrapieno circolare. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Quella che avete appena sentito non è una pagina tratta da un libro di fantascienza, anche se decisamente lo sembra, bensì una pagina tratta dalla Dissertatio cum Nuncio Sidereo di Keplero. Pensate un po', lo scienziato che scoprì all'inizio del 600 le tre leggi che governano il moto dei pianeti del sistema solare. D'altronde ci sono i seleniti, per esempio, che compaiono, cioè gli abitanti della Luna, da subito in uno dei primi romanzi di fantascienza, I primi uomini sulla Luna di Herbert George Wells, siamo nel 1901. Questo insomma per dire che l'idea che altre forme di vita potessero popolare altri pianeti è presente da sempre, addirittura più nel passato che nel presente, ed è esattamente di questo che ci occuperemo oggi. Ci domanderemo quindi quanto potrebbe essere frequente la vita nell'universo e quante possibilità ci sono che un giorno riusciamo a individuarne le tracce, o addirittura, se parliamo di vita intelligente, riusciamo a comunicare con essa. Ebbene, ci aiuta a fare il punto su questo settore, da sempre in bilico tra scienza e fantascienza, Fabio Pagan, che è biologo anzitutto, ma anche giornalista scientifico ed esperto di astrobiologia, di cui si occupa ormai da tanti anni. Buonasera Fabio, benvenuto. Buonasera Maurizio e buonasera agli ascoltatori. Dunque Fabio, le parole di Keplero, quelle che abbiamo sentito all'inizio, ma possiamo pensare anche ai canali che l'astronomo italiano Schiaparelli ritenne di individuare su Marte e poi addirittura su Mercurio. Insomma, se pensiamo a tutte queste cose ci rendiamo conto che c'era un'idea nel passato molto ingenua di quello che serviva alla vita per nascere e per svilupparsi, e così si arrivava insomma alla conclusione che doveva esserci un po' dappertutto. Poi è arrivata l'epoca delle sonde, abbiamo imparato a conoscere meglio il sistema solare e abbiamo capito che non era così facile. Ma appunto Fabio, che cosa possiamo dire oggi della vita nel sistema solare? Dei seleniti è molto pertinente. Addirittura nella letteratura di divulgazione popolare fino al 1930, all'incirca, io ho qui un libro accanto a me pubblicato da Bompiani nel 1937, dove si parla delle città di Marte, dei marziani e dei canali come effettivamente dei trasportatori d'acqua. E si considerava normale l'idea che ci fossero i marziani su Marte, i seleniti sulla Luna e così via. Oggi però al massimo su Marte andiamo a cercare dei batteri e dei batteri fossili che potevano essersi formati anticamente, e che è difficile che oggi ci siano batteri sulla superficie marziana, forse sotto la superficie marziana, lì dove c'è il permafrost, perché ci sono, è stato ormai accertato, dell'acqua ghiacciata sotterranea, e questa, la ricerca proprio di forme di vita passate su Marte, sarà il compito della prossima importantissima missione automatica su Marte, che dovrebbe partire nel dicembre prossimo, ed è una sonda americana molto più complessa, un robot molto più complesso di quelli finora inviati su Marte. Però ci sono altri due posticini nel nostro sistema solare interessanti dal punto di vista della ricerca della vita, possiamo dirli rapidamente, e sono una luna di Giove, che è Europa, superficie completamente ghiacciata, sotto alla quale forse c'è una specie di oceano melmoso riscaldato che potrebbe ospitare forse forme primordiali di vita, e poi Titano, la grande luna di Saturno, dove abbiamo visto che ci sono una specie di laghi e fiumi di idrocarburi, e qui ci sono delle condizioni forse per certi versi analoghe o simili a quelle che c'erano nella primitiva atmosfera terrestre. Dunque, una cosa però è certa, sebbene insomma non sia ancora il momento di arrendersi ed escludere completamente che il sistema solare possa ospitare la vita fuori dalla Terra, di sicuro diciamo le chance aumentano se guardiamo alle altre stelle. Forse intorno a qualcuna di queste potremo trovare proprio un gemello della Terra, ed è un obiettivo che molti ricercatori si pongono, con la speranza che anche noi un giorno potremo dire qualcosa del genere. Sentite. Ehi, Sto rilevando un grosso corpo planetario. È dannatamente vicino. Da dove spunta fuori? Magari lo sapessi. Ci sono troppe interferenze, il Dredis non lo rileva. Fammi vedere. L'atmosfera è azoto-ossigeno. Vasta gamma di molecole organiche. Acqua fresca. Ehi, sai che significa? Che è abitabile. Abbiamo trovato un mondo in cui gli esseri umani possono vivere. Dunque, la sequenza che avete appena sentito arriva da un episodio di Battlestar Galactica, una serie di fantascienza di pochi anni fa che è stata di grandissimo successo, molto bella in effetti. E questo è il momento, insomma, della scoperta, per la verità del tutto accidentale, di un pianeta abitabile. Abbiamo capito alcune delle caratteristiche che deve avere un pianeta per essere tale, ma ci facciamo spiegare, dire qualcosa di più, soprattutto sulle condizioni astrofisiche che devono sussistere, da Amedeo Balbi, che è astrofisico, ricercatore dell'Università di Roma, Tor Vergata. Ascoltiamo. Possiamo partire da un requisito minimo, che è quello che, siccome vogliamo che sul pianeta ci sia dell'acqua liquida in superficie, il pianeta deve trovarsi alla giusta distanza dalla stella che lo ospita. Quindi, a seconda della stella su cui concentriamo la nostra attenzione, verrà definita quella che viene chiamata fascia di abitabilità o fascia abitabile, che è semplicemente un anello che sta a una certa distanza dalla stella e dove, appunto, ipotizziamo che possano esserci le condizioni di temperatura adatte perché ci sia dell'acqua liquida in superficie. Ovviamente le cose sono molto più complesse di così, perché poi entrano in gioco tutta una serie di altre considerazioni, per esempio la presenza o meno del campo magnetico che scherma la superficie del pianeta dalle particelle cariche che arrivano dalla stella e che possono strappare l'atmosfera, per esempio, dal pianeta. Ovviamente, appunto, l'atmosfera stessa è un requisito molto importante e la presenza o meno di un'atmosfera dipende da tante cose, dipende dalla gravità superficiale del pianeta e da altre considerazioni. Dunque, Fabio Pagan, abbiamo sentito Amedeo Balbi fare un elenco niente male di condizioni, tutte condizioni che devono sussistere, ma se ne potrebbero anche aggiungere altre. Alcuni, per esempio, pensano che la nascita della vita sulla Terra sia, come dire, possibile solo se esiste una tettonica a zolle. Altri addirittura dicono che se nel sistema non esiste un pianeta tipo Giove che attira tutti i corpi vaganti, tutti gli asteroidi che possono altrimenti colpire periodicamente gli altri pianeti, la vita fa fatica a svilupparsi. Insomma, che conclusione dobbiamo trarre? Dobbiamo pensare che la vita sia un fenomeno estremamente raro e improbabile? Questa è una possibilità dal punto di vista forse biochimico, dell'evoluzione biochimica che noi conosciamo e che cerchiamo di ricostruire in parte in laboratorio, in parte studiando ad esempio i materiali organici trovati nelle meteoriti. Ma dobbiamo tener conto anche della spaventosa complessità e vastità dell'universo in cui noi siamo immersi. Si parla di 100-200 miliardi di stelle che formano la nostra sola galassia, la Via Lattea, e noi conosciamo forse un centinaio di miliardi di galassie, quindi possiamo stimare che in questo universo ci sono almeno 10 elevato alla 22 stelle. È un numero di fantasmagorico, sì. Corrisponde a un numero superiore a quello che sono i granelli di sabbia in tutte le spiagge, in tutti i deserti del nostro pianeta. Allora si dice, è possibile che in tutta questa enorme numero di stelle non ci sia qualcuno in cui abbia dei pianeti che possano aver avuto un'evoluzione simile alla nostra? Beh, oggi sappiamo che a poche decine di anni luce di distanza da Terra abbiamo scoperto finora, dal 1995 ad oggi, oltre 500 pianeti extrasolari. A fine luglio adesso erano 563, ho visto l'altro giorno le ultime statistiche, almeno altri 1200 sono candidati pianeti, e abbiamo trovato anche delle molecole organiche molto complesse a base di carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto e altri composti, addirittura nella polvere interstellare. E tutti questi numeri, tutti questi fattori indubbiamente ci danno una speranza, almeno dal punto di vista, chiamiamolo, di parametri numerici, nella possibilità che siano replicate altrove le condizioni che hanno consentito l'evoluzione della vita sulla Terra. E insomma, a questo punto nasce spontaneamente una domanda: è possibile stimare, facendo un po' un confronto fra tutti questi numeri, quanti pianeti potrebbero effettivamente ospitare la vita nella nostra galassia e magari vita intelligente? Ebbene, può sembrare sorprendente, ma una formula esiste ed è nota come formula di Drake. Ce ne parla ancora una volta il nostro Amedeo Balbi. E dunque, Frank Drake negli anni 60, diciamo, escogitò un modo per tentare di stimare quante potevano essere nella nostra galassia le civiltà evolute, le civiltà quindi in grado addirittura potenzialmente di comunicare con noi. Per fare questa cosa tenne in considerazione una serie di fattori: quante stelle esistono nella nostra galassia, quante di queste stelle sono stelle attorno a cui possono esserci dei pianeti, quanti di questi pianeti possono avere condizioni di abitabilità tali da permettere alla vita di sopravvivere sulla loro superficie e così via. Mettendo insieme tutti questi fattori, che sono ovviamente fattori probabilistici, si arrivava, secondo Drake, a una stima del numero di civiltà evolute tecnologicamente all'interno della nostra galassia. Come dicevo prima, siccome i numeri sono completamente incogniti, gli ottimisti come Drake arrivavano a una stima di un numero di civiltà evolute molto grande, e altri pessimisti arrivavano a numeri piccolissimi o addirittura alla conclusione che noi fossimo gli unici nella galassia. Insomma, Fabio, è una lotta tra grandi numeri e grandi incertezze, mi sembra di poter dire così. Esattamente, però questo è anche il fascino dell'astrobiologia o della bioastronomia, come adesso si chiama questa disciplina, che un tempo si chiamava esobiologia, e la ricerca da una parte di capire come si è evoluta la vita sulla Terra e ricostruirne i grandi passi. E anche questo, ecco, diciamolo, è un argomento spinoso, ancora non sappiamo rispondere molto, a questa domanda. Molto spinoso, però sappiamo che tutto sommato le primissimi semplicissimi organismi si sono formati all'incirca 3 miliardi e mezzo di anni fa sulla Terra, e che vuol dire circa 1 miliardo dopo l'origine della, quindi molto della Terra presto, e del insomma. Sistema solare, ecco, e quindi molto molto presto. Ecco Fabio, però io per il momento ti devo fermare, ora c'è il traffico, appuntamento tra pochi minuti. Odissea 2011, in viaggio verso il futuro. Bentornati Odissea 2011. Che cos'è la vita? È un sistema chimico capace di replicarsi usando l'energia e le sostanze disponibili nell'ambiente e di andare soggetto ad evoluzione darwiniana. Più o meno è questa la definizione che dà la NASA di vita. Fabio Pagan credo che concorderà con me che si tratta di una definizione di vita molto più ampia di quella della vita terrestre che conosciamo, vero Fabio? Direi di sì, e questo è proprio per lasciare aperta la porta ad altre possibilità. E infatti in questa definizione, per esempio, rientrerebbe di sicuro la creatura che Lucky Star e il suo compare Bigman, protagonisti di una serie di romanzi di Isaac Asimov, ambientati tutti nel Sistema Solare, incontrano su Mercurio, al Polo Nord per la precisione, dove all'interno dei crateri più profondi il sole implacabile che picchia dannatamente su Mercurio non arriva mai. Ascoltate. Un ultimo tentacolo discese pigramente. Erano d'aspetto così simile alla roccia, collegati l'uno all'altro come un unico organismo. Ma non c'era un nucleo, un corpo. Era una sorta di gigantesco polipo di pietra formato unicamente da tentacoli. Nella mente di Bigman ci fu una specie di esplosione di pensieri. Roccia in cui, attraverso le lunghe ere dell'evoluzione di Mercurio, si era sviluppata una particolare forma di vita, completamente diversa da ciò che conoscevano i terrestri. Una vita che si sostentava solo di particelle di calore. Perché no? Bigman poteva immaginare chiaramente come fossero affluiti verso il polo nord di Mercurio, quando gli uomini vi si erano insediati. Prima le miniere, poi la cupola dell'osservatorio, li avevano riforniti di un continuo flusso di calore. Anche l'uomo poteva essere loro preda. Era un estratto da Lucky Star, il grande sole di Mercurio, dove si ipotizza l'esistenza di questa creatura che si ciba di calore. Ovviamente è un'invenzione fantascientifica, ma Fabio, io ti chiedo, quanti tipi di vita esistono? Noi ne conosciamo uno solo, quello di cui noi facciamo parte qui sulla Terra, e questo è un po' il problema dell'astrobiologia, il fatto di cercare se possibile una seconda vita conoscendo i parametri che sono in gioco soltanto in una vita che è la nostra, e questo è un po' il problema di fondo, se vogliamo. Allora possiamo speculare quelle che sono altre possibili biologie alternative, possiamo mettere al posto delle molecole di carbonio, al posto del carbonio nelle molecole organiche ad esempio il silicio, e vedere l'effetto che fa. Beh, il silicio per certi versi è una sostanza che può sostituire il carbonio, però forma dei legami molto più instabili, non solo, ma il silicio è anche nelle forme di silicati un solido come nella sabbia. Certo, infatti ricordo un libro di fantascienza nel quale si ipotizzava che delle creature al silicio vivessero in un ambiente di qualche centinaio di gradi, in cui appunto erano un po' più morbide, per esempio. Questo è il problema. problema, perché il silicio è un solido, è un cristallino, e quindi dovremmo pensare a delle condizioni assolutamente diverse, certo, dal punto di vista delle temperature. E possiamo anche pensare però che l'acqua, che è il solvente delle reazioni biochimiche, in condizioni diverse possa essere sostituita ad esempio dall'ammoniaca, come potrebbe avvenire nell'oceano che sta sotto i ghiacci di Europa, oppure quegli idrocarburi che sono talmente abbondanti sulla superficie di Titano, questa luna di Saturno, da formare dei laghi e dei fiumi e forse dei piccoli oceani. Insomma, queste sarebbero proprio forme di vita completamente diverse da quella che conosciamo. Una cosa però è certa: non sappiamo ancora quanto di frequente la vita possa nascere, ma sappiamo una cosa, che è certamente molto dura a morire. Sentite qua. Man mano che le ricerche proseguono, vengono sempre scoperte forme di vita in luoghi considerati abiotici. Ne sono un esempio gli organismi che vivono in ambienti con pH acidi o alcalini, particolarmente alti o bassi, oppure organismi che vivono a temperature bassissime, come nel permafrost in Siberia o in Antartide, oppure a temperature molto elevate, come nelle fiatatoie idrotermali, lì dove si pensa che organismi termofili siano, diciamo, rappresentino le prime forme di vita originatesi sulla Terra, oppure organismi che sopravvivono a radiazioni ionizzanti elevatissime, come che sono in grado di sopravvivere anche nelle centrali nucleari, come Deinococcus radiodurans, e poi anche organismi che riescono a sopravvivere alla completa rimozione dell'acqua. E questi organismi in particolare sono stati trovati all'interno di rocce nelle valli secche dell'Antartide o nel cuore iperarido del deserto dell'Atacama in Cile, che sono considerati proprio il rappresentare il limite fisico della vita come noi la conosciamo, tanto da essere anche menzionati come gli analoghi terrestri di Marte, appunto per la carenza di acqua e per le basse temperature. E sono proprio organismi che derivano da questi ambienti estremi che sono stati selezionati dall'ESA, quindi dall'Agenzia Spaziale Europea, per testare la sopravvivenza di organismi terrestri nello spazio, e questi organismi hanno dimostrato di poter sopravvivere per circa un anno e mezzo a tali condizioni. Era la voce di Daniela Billi, astrobiologa in forza all'Università di Roma Tor Vergata ed esperta in batteri estremofili. Fabio Pagan, per quanto quella che conosciamo, insomma, sia il frutto di circostanze molto particolari, la vita, abbiamo detto, che potrebbe assumere molte altre forme. Sappiamo per certo che è adattabile. Sappiamo anche che ci sono molti luoghi nell'universo e anche nella nostra galassia che probabilmente potrebbero ospitarla. A questo punto la domanda che viene: è possibile entrare in contatto con una civiltà aliena, con una intelligenza aliena? Perché in fondo è questo quello che ci interessa e che ci affascina di più. Ora, la fantascienza è piena di primi contatti non proprio amichevoli, insomma, l'invasione aliena è un leitmotiv ben noto, ma è molto più probabile che, se mai avremo un contatto con una civiltà aliena, sarà qualcosa del genere. Ascoltiamo. Era una sequenza estratta da Contact, film di Robert Zemeckis nel 1997, a sua volta tratto dall'omonimo libro di Carl Sagan. Fabio Pagan, questa sequenza è ambientata vicino a uno di questi grandi osservatori astronomici, o meglio radioastronomici, in riferimento decisamente al progetto SETI. Ma finora, concretamente, che cosa abbiamo fatto per cercare di trovare intelligenze extraterrestri? Il film Contact, di cui abbiamo sentito la sequenza più emozionante, che mi colpisce sempre ogni volta che rivedo il film, rappresenta bene quella che è la speranza di trovare civiltà extraterrestri. Quello che si è fatto è legato soprattutto a questa figura di Frank Drake, che abbiamo evocato più volte in questa trasmissione, che nel 1960, quando aveva appena 30 anni, compì da Green Bank in Virginia, dal radiotelescopio di Green Bank, il primo tentativo di captare onde elettromagnetiche, tra virgolette, virgolette intelligenti, cioè con un codice che non poteva essere identificato con qualcosa di naturale, da due stelle, Tau Ceti ed Epsilon Eridani, distanti 10-12 anni luce dalla Terra. Fu un tentativo assolutamente pionieristico e sperimentale, durato poche settimane, non diede risultato, ma da lì è nato un filone di ricerche che ha riguardato varie strumentazioni intorno al mondo. Nel film Contact si vede ad esempio il grande telescopio di Arecibo a Puerto Rico, di cui tra l'altro anche Frank Drake è stato per un periodo direttore, poi le antenne del VLA, il Very Large Array, sono due degli strumenti che vengono utilizzati per queste ricerche, sempre però, attenzione, non è che vengano utilizzati in tempo totale, vengono utilizzati in una forma, se vogliamo, passiva. Mi diceva proprio Frank Drake, che ho incontrato più volte in questi anni, che al mondo forse vi sono una ventina di persone, non più, che lavorano a tempo totale o a tempo parziale al progetto SETI, quindi non c'è una grande mobilitazione. Ecco, ma rispetto, diciamo, a questo tipo di esperimenti, cioè noi abbiamo ascoltato un pochettino, no? Quello che ci arriva dalle altre stelle. Abbiamo ascoltato tanto o abbiamo ascoltato poco? Insomma, possiamo considerare esaustiva questa. Poco, naturalmente. Poco, tant'è vero che adesso in California, per compito del SETI Institute, si sta creando un altro strumento, l'Allen Telescope Array, che sarà composto da una serie di un centinaio di piccole antenne che avranno un compito quasi completamente dedicato al progetto SETI. Quindi questo potrà essere una svolta assieme ai telescopi spaziali, come il telescopio Hubble e il suo successore, il telescopio James Webb. E qui stai anticipando il nostro Amedeo Balbi, che ci parla di alcuni di questi sviluppi che possiamo attenderci nei prossimi anni per quanto riguarda la ricerca di vita extraterrestre tout court, non solo intelligente. Sentiamo. Dunque, negli ultimi anni sono stati scoperti un gran numero di pianeti intorno ad altre stelle. Quello che è interessante è che in futuro potremo addirittura riuscire probabilmente a caratterizzare la composizione chimica dell'atmosfera di questi pianeti che continueremo a scoprire. Quindi, per esempio, a capire se nelle atmosfere di questi pianeti c'è l'ossigeno, che è chiaramente un indicatore molto forte della presenza di attività fotosintetica e quindi di vita sul pianeta. Addirittura ci sono studi molto così futuristici sul fatto che addirittura si potrebbe riuscire a capire la componente dominante della superficie del pianeta, riuscire a stabilire se c'è della clorofilla, quindi per esempio molte piante o altri indizi di questo tipo. È possibile che nei prossimi anni avremmo prima o poi la certezza che c'è qualche gemello della Terra intorno a qualche altra stella all'interno della nostra galassia. Insomma, potremo assistere a grandi novità nei prossimi anni. Fabio, in una battuta, perché siamo davvero in chiusura, ti chiedo, ci potrebbe essere scoperta più grande? Non credo proprio, forse la scoperta scientifica dell'esistenza di Dio, ma mi sembra alquanto improbabile. Beh, sì, anche a me devo dire, eppure mi sembra un po' pretenzioso. Grazie Fabio Pagan. Grazie a te Maurizio e saluti a tutti. Grazie anche a tutti gli ascoltatori, appuntamento a sabato prossimo.